con quella tecnologia, quella di cui parla lei, dottor Burdo, riesco anche ad escludere mia suocera, oltre che il rumore? La suocera va soppressa, la suocera. No, non rida. Ricordiamoci che all'interno del condotto uditivo esterno, quindi nel canale dove noi ci fichiamo dentro il mignolo, ci sono dei... Non si dovrebbe però... No, dottor Burdo, anche no, soprattutto pubblicamente, macchina, ecco. Si fa in macchina la mattina andando in ufficio, no. Il mondo è pieno di questi che si infilano il mignolo. I mignolatori, va bene, ok. Claudio, vada, veloce. Sì, buongiorno, allora sono contento di aver superato la barriera rosa, la vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Di gioia, di tristezza, di commozione, di felicità, di coccodrillo, di cipolla e di freddo. Stai parlando delle lacrime, vero? Sì. Eccole qua, quelle che verso io la mattina quando esco di casa presto al mattino, perché con questo freddo che ci taglia la faccia c'è anche questa reazione. Assolutamente, è vero, succede anche a me, però Deborina non preoccuparti perché ho letto che nel corso della vita ne produciamo 70 litri. Però... Per fortuna però, perché le lacrime servono, sono fondamentali, lo scopriremo nel corso della nostra trasmissione con un grandissimo esperto. 800 24 00 24, se i vostri occhi lacrimano, invece anche se avete la sensazione che i vostri occhi siano secchi, quindi di avere poche lacrime, o se siete nella condizione di usare lacrime artificiali. 349-238-6666. E a proposito di circostanze e situazioni che ci fanno versare lacrime, speriamo il meno possibile, oggi facciamo anche il punto sulla legge di stabilità, la ex legge finanziaria che negli anni scorsi è stata soprannominata proprio lacrime e sangue. Questa volta forse però, per fortuna, chissà, non ne siamo ancora totalmente certi, c'è qualche lacrime in meno. E a proposito di lacrime, dato che la puntata vogliamo dedicarla proprio alle lacrime, raccontateci se quest'anno avete versato più lacrime per cuore o per denari, e spiegateci il motivo. Ma secondo te le lacrime di freddo sono di cuore o di denari? Lo scopriremo strada facendo, anzi lo chiederemo al nostro esperto, e intanto invitiamo i nostri ascoltatori a seguirci. Senza lacrime al momento partiamo. Natura, nutrizione scientifica vi presenta Essere e Benessere. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose, dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Una cosa è certa, che di loro non possiamo proprio fare a meno, anzi le ricerche dicono, e l'esperienza conferma, che lasciare andare le lacrime liberamente, senza reticenze né pudori, fa bene, i muscoli si distendono e soprattutto cala lo stress. Allora fuori i fazzoletti, fuori le emozioni e le ragioni che ci fanno e ci hanno fatto piangere, ma anche le ragioni che ci fanno trattenere il pianto. Una puntata in cui avremo tanto da raccontarci, perché lo sappiamo, ci sono le lacrime di gioia, quelle di dolore, di orgoglio, di cordoglio, di felicità, di soddisfazione, quelle di coccodrillo, e per chi fosse a corto di lacrime ci sono anche le lacrime artificiali. Ma soprattutto in linea con noi abbiamo un grande esperto, il professor Maurizio Rolando, associato di oftalmologia e direttore di Centro per la Ricerca Clinica e Sperimentale della Malattia della Superficie Oculare all'Università di Genova. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professore, le lacrime sono talmente importanti che c'è una scienza che le studia. Sì, è una scienza che si chiama dacrilologia, è una scienza che negli ultimi 15 anni ha avuto un impulso della ricerca straordinario, direi, che ci ha consentito di capire che cosa fanno queste lacrime. E infatti noi non vorremmo versarle, ma l'abbiamo anticipato, e poi secondo me tutto quello che madre natura ci dà in dotazione a qualche cosa serve. E le lacrime non solo servono, ma sono fondamentali, sono importantissime, perché quando noi piangiamo, i ricercatori dicono che buttiamo fuori, no, le tossine anche dello stress, ma sono fondamentali anche quando non piangiamo, per detergere e idratare i nostri occhi. Certamente, le lacrime in realtà rappresentano una cosa molto simile al sangue, ossia hanno tutti i fattori di crescita, di nutrizione per la cornea, che è quella membrana trasparente che ci consente di vedere, come un vetro che consente la trasparenza dell'occhio. E le lacrime servono a nutrire, a dare i segnali di proliferazione degli epiteli che coprono, di queste cellule che coprono questa sostanza, questa struttura trasparente, e quindi mantengono la salute di questa struttura. È un po', lei dice, come il sangue, un po' come la saliva per la nostra bocca, giusto? Certamente. Liquido per liquido. Liquido per liquido sono. Le lacrime hanno alcune proprietà veramente straordinarie come attività antibiotica, però in confronto della saliva, che serve non per dimostrare una superiorità dell'occhio nel confronto della bocca, però le lacrime devono anche mantenere una trasparenza, quindi in realtà sulla superficie dell'occhio, ogni volta che ammicchiamo, noi creiamo un'architettura che si ricompone. Cioè, la buttiamo giù e la ricostruiamo. Ma che poesia, è vero, che è un po' anche un poeta. Certo, il nostro dottor Rolando, è vero. Adesso però gliela smonto io, dottor Rolando, questa poesia. Perché qua la donna di denari bussa alla porta. Il professor Rolando ci dice che le lacrime fanno bene ai nostri occhi. Passando ai denari, oggi non ci resta che sperare che le lacrime e sangue versate con le manovre finanziarie degli ultimi anni siano servite anche loro a qualcosa, anche perché le finanziarie, oggi si chiamano leggi di stabilità, non sono affatto fornite da madre natura, come tu dicevi prima, Nicoletta, quindi hanno ben poco di poetico. Ci possiamo consolare almeno un po' con l'ultima legge di stabilità? Metto il punto interrogativo e lo giro al nostro Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Ciao, benvenuto. Grazie, buongiorno. 800 24 00 24, il numero verde per i nostri ascoltatori, per i loro quesiti sul tema delle lacrime e i problemi ai loro occhi da questo punto di vista, ma anche i problemi alle loro tasche. Insomma, lacrime di cuore o lacrime di denari? Ciao, facciamo Giovanni. Un quadro generale, Giovanni, della situazione in questa manovra di stabilità e poi anche del pacchetto Destinazione Italia, perché sono due provvedimenti che stanno viaggiando di pari passo. Insomma, piangeremo un po' meno nel 2014, qual è la sensazione che hai? Allora, usciamo da un bel tour de force fiscale, no? Che ci ha visto pagare gli acconti sulle tasse, sull'IRPEF, gli ultimi giorni pesanti per chi ha seconde case, uffici, capannoni, per quanto riguarda l'IMU, poi Tarsu, Tares, ne abbiamo parlato poco fa a microfono spento, quindi in qualche modo abbiamo bisogno di qualche notizia positiva per il prossimo anno. Allora, la legge di stabilità contiene qualcosa, qualche spunto che si è visto, insomma, anche nell'ultima nel corso dell'approvazione in commissione bilancio, finita alle 2 della scorsa notte. Adesso il testo approderà oggi in aula nel pomeriggio. E qualcosina sul fronte, ad esempio, degli esodati che aspettavano risposte, cioè sul innalzamento della salvaggiardia con il numero di persone che maggiore che viene compreso. C'è qualche novità per la carta acquisti che in qualche modo viene posta a sostegno del reddito, qualche novità anche su Equitalia, insomma, con la possibilità di sanare le vecchie posizioni, e molto ci aspettiamo anche dal decreto Destinazione Italia, che è passato in Consiglio dei Ministri venerdì scorso, che attende appunto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che contiene misure, diciamo, di sostegno per quanto riguarda gli acquisti sui libri, con una nuova detrazione al 19%, che però sarà operativa nella dichiarazione dei redditi 2015, e anche per quanto riguarda i risparmi sulle assicurazioni, con la proposta appunto di istituire una black box, una scatola nera all'interno delle automobili, che consentirà appunto agli automobilisti più virtuosi di avere degli sconti sulle assicurazioni da pagare, certo, ogni anno. Benissimo, abbiamo fornito un quadro generale e tra poco, nel corso della trasmissione, andremo punto per punto a spiegarvi queste novità. Senza piangere, promesso. Senza piangere, ma in linea abbiamo Gianna che ci chiama da Roma. Buongiorno Gianna, benvenuta. Buongiorno. Auguri a tutti e auguri alle due monelle, sono sempre io Gianna. A Deborah e a Nicoletta, che grazie, siete bravissimi, auguri. Allora, niente, in fatto di lacrime, io ho gli occhi veramente molto belli, chiari. Gianna ci deve subito mandare una foto che la mettiamo su Facebook, come Cleopatra, una delle nostre ascoltatrici. Facciamo tipo Cleopatra, però. chiari, azzurri, delicati. Però ogni volta che d'inverno io esco da casa, almeno 500 metri, due lacrime, se non poi massimo quattro. Salgo sull'autobus, guardo l'autista e quello dice: non si commuova, guardi, non è perché la commozione. È così, io penso che sia il freddo, può essere il freddo. Senta, però Gianna, lei ha voluto gli occhi di Cleopatra azzurri e adesso ce li ha, gli occhi sensibili, se li tiene. Professor Rolando, dica qualcosa. Beh, certo, e qui gli occhi sono particolarmente sensibili, adesso io l'ho vista, quindi aspetto di vederla. Ci ha stuzzicato tutti la curiosità, ovvio. Certo, queste lacrime sono lacrime di difesa. L'aria fredda o il vento appena uscita stimola una necessità di protezione da parte della superficie dell'occhio che cerca di aumentare i processi di difesa, quindi la lacrima diventa più spessa proprio per proteggere la cornea che c'è sotto, la lacrima viene a lavare gli eventuali frammenti, piccoli corpuscoli di polvere che possono raggiungere con il vento la superficie dell'occhio, quindi è un sistema automatico quasi ormai di difesa che ha il suo occhio evidentemente particolarmente sensibile alla luce e agli agenti atmosferici e che si difende in questo modo cercando di lavare la superficie dell'occhio. Talvolta la iperlacrimazione può essere un segno del fatto che la lacrimazione normale è leggermente scarsa e quindi invece della produzione normale di lacrime abbiamo bisogno di un eccesso di lacrime riflesse. Professore, la cosa strana è che le lacrime non sono tutte uguali, insomma quelle che produciamo per difenderci dal freddo, affettiamo una cipolla, oppure per le lacrime che versiamo per problemi di cuore, hanno delle composizioni differenti. No, adesso ci deve dire poi la composizione di quella versata per pagare le tasse. È vero, quella non è ancora stata studiata, ma sono sicuro che ci arrivano, perché altro che abbiamo abbondante materiale. Sì, la cosa più fantastica, infatti, è che il nostro organismo è in grado di adattare la secrezione lacrimale a seconda delle proprie necessità. Mm-hmm. È stato dimostrato ormai, sono 20 anni fa circa, che le lacrime del pianto, da tristezza, eccetera, hanno alcune componenti, sembrerebbe questo manganese, eccetera, che sono sostanze che sono depressive sul nostro cervello e che per qualche ragione il pianto allontana e quindi dopo un bel pianto uno si sente meglio. Il famoso pianto liberatorio. Ma c'è di più, perché non ci sono solo differenze nella composizione delle lacrime, ma c'è anche una differenza di genere, diciamo così. Gli uomini e le donne non piangono allo stesso modo, le donne ad esempio singhiozzano, ma le donne sembra che piangano molto di più. Per studiare queste differenze, i ricercatori di un'associazione tedesca ci hanno voluto vederci chiaro, come si dice, sono andati proprio a misurare e hanno scoperto che forse noi donne sembriamo piagnone, ma c'è anche una giustificazione a tutto questo. Andiamo. Donne battono uomini 4-1. Il gentil sesso piange in media 64 volte l'anno, circa il quadruplo rispetto al massimo di 17 volte dell'uomo. Lo scarto inizia nell'adolescenza. Fino all'età di 13 anni, i due sessi versano la stessa quantità di lacrime, ma superata questa soglia, le donne cominciano a piangere, di più e più a lungo, con una media di 6 minuti rispetto ai 4 dell'uomo. E le differenze non finiscono qui. Il 65% delle donne piange a singhiozzo, contro il 6% degli uomini. Allora, ritorniamo al nostro Giovanni Parente, perché prendo al volo questa ricerca per la domanda sulla manovra di stabilità. Certo. Abbiamo fatto un legame appunto molto avvincente, perché se le donne si sono fatte qualche pianto quest'anno, è toccato soprattutto alle mamme che volevano accedere al famoso bonus bebè erogato dall'INPS per pagare o la babysitter o un asilo nido, e però molte non sono riuscite a farlo. Poi ricorderemo le motivazioni, di fatto potranno riprovarci quest'anno perché a quanto pare, Giovanni, la legge di stabilità stanzia altri fondi a questo fine. Allora, nell'emendamento presentato dal governo e approvato dalla commissione bilancio vengono stanziati altri 30 milioni di euro. Qual è il problema, insomma, da questo punto di vista? Abbiamo visto che nella precedente versione le modalità di erogazione erano molto complesse, sostanzialmente bisognava ritirare dei voucher cartacei presso l'INPS, poi fare una comunicazione di... C'era praticamente da intercettare un nido vicino casa che si fosse accreditato all'INPS, e quindi le mamme dovevano, come delle disperate, cercare la struttura più vicina a loro che si fosse accreditata all'Istituto di Previdenza Nazionale appunto per questa operazione, il che è stato facile, molti soldi sono ancora lì, non sono stati utilizzati. Esattamente, come spesso avviene in molte misure di welfare, poi funziona che praticamente non c'è un'erogazione dei veri e propri fondi che erano stanziabili, perché le procedure vengono rese troppo farraginose, troppo complesse. Allora speriamo che in questo caso, nell'attuazione di questo bonus bebè, si faccia tesoro delle difficoltà che sono state riscontrate praticamente sul campo e si trovi una procedura un po' più semplice, magari sfruttando anche le meraviglie della tecnologia, perché ad esempio in qualche modo ci possono essere dei sistemi di prelazione anche magari via internet, previa autenticazione, magari che non si faccia per un altro click day, perché anche lì sono sempre molto complicati, le mamme si devono alzare di buon'ora, perché lì chi tardi arriva male alloggia. Quindi comunque 30 milioni di euro il prossimo anno a disposizione delle mamme. Cercheremo chiaramente di raccontarvi al volo, quando conosceremo tutti i dettagli di questa operazione, come si potrà accedere a questi fondi, come quindi si c'è un po' da rallegrarsi. Rallegriamoci, sì, però che facciano una procedura chiara e trasparente. Assolutamente trasparente, sì. Come le lacrime, vedi? Mm-hmm. Chiare e limpide. Giuseppe, buongiorno, ci chiama da Lucca, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei. Niente, io ho fatto una visita lunedì, praticamente mi hanno detto che ho poche lacrime, l'hanno riscontrato, mi hanno dato due colgiri, uno per la notte, uno per il giorno, 3-4 volte durante il giorno. L'ho fatta perché vedevo male, mi hanno detto che da vicino non vedo, e gli occhiali che avevo, che feci nel 92, praticamente è risultato perché come se fosse una lente di ingrandimento. Sì. E mia fortuna l'ho messo poche, però... Però, questi colliri, che non ho chiesto la funzione che hanno, immagino per aiutare l'occhio, sicuramente. Aiutare l'occhio, che è rimasto un po' a secco. Professor Rolando, Giuseppe dice: avevo un po' l'occhio secco, ci sono delle sensazioni chiare, le abbiamo provate tutte, quando ti senti un po' l'occhio, no? Lo senti magari... Normalmente l'occhio non si sente. Ecco, lo sentiamo che magari brucia, prude, abbiamo quella strana sensazione di avere un corpo estraneo, oppure, come ci segnalava in fondo Giuseppe, magari vediamo male quando... durante la lettura di un libro facciamo fatica, sentiamo che l'occhio si sforza. Una cosa simile possiamo avvertirla anche dopo ore e ore passate davanti al PC, come facciamo, come fanno tante persone, anche Deborah e io. Quindi, professore, questi sono i segni con cui l'occhio ci dice: attenzione, sto andando in riserva? Sono i segni, sì, che ci dice che la produzione delle nostre lacrime in questo momento è insufficiente. È insufficiente perché o ne produciamo poche o ne perdiamo troppe. Delle volte, amicando meno, teniamo l'occhio aperto sul computer, tanto più è complesso il lavoro che stiamo facendo, tanto più attenzione dobbiamo dedicare, tanto meno amichiamo, perché il nostro cervello non vuol perdere neanche un istante di quello che sta vedendo. E allora, se non amichiamo, l'acqua evapora, restano i sali e i sali bruciano. E questa è la ragione per cui avvertiamo dopo un po' bruciore agli occhi. Ma nello stesso tempo, se la lacrima è indispensabile per la visione, perché è quella che rende brillante, lucido e perfettamente liscia la superficie della cornea. Se non abbiamo poche lacrime, la nostra visione non sarà più così perfetta, la qualità ottica del sistema occhio, diciamo, non è così perfetta. E quindi faremo più fatica a vedere. 800 24 00 24, se volete vederci chiara. Esatto, giusto, anche, è il caso di dire. Anche sulle nuove norme che stanno arrivando, con la legge di stabilità, con il pacchetto Destinazione Italia, ci sono tanti provvedimenti in arrivo che impatteranno direttamente sulle nostre tasche, nel bene o nel male, tra le abitudini dei consumatori, dei risparmiatori, e ne parleremo appunto nel corso della trasmissione. Un ascoltatore ci scrive: Giovanni, se per la finanziaria 2014 si verseranno meno lacrime, è perché aumenterà il versamento di sangue. Ci saranno dei comparti particolarmente tartassati che ancora non sono venuti allo scoperto, Giovanni? La casa so che sarà ancora al centro di grande attenzione generale. La casa è una partita ancora aperta, su cui in qualche modo è oggetto di trattative, e bisognerà vedere che cosa, che testo porterà il governo nel maxi emendamento, perché insomma nel testo elaborato alla commissione bilancio probabilmente sarà ritoccato ulteriormente. Certo, perché comunque l'IMU sulla prima casa abolita, sappiate che è rientrata sotto altre forme da altre parti, per cui facciamocene una ragione. Diciamo che questo ha rappresentato un anno straordinario per quanto riguarda il mancato pagamento dell'IMU sull'abitazione principale. L'anno prossimo si tornerà con la TASI, che verrà in qualche modo addolcita, ma ritorna la forma di prelievo sull'abitazione principale. E poi c'è comunque il saldo con la mini IMU che devono fare appunto tutti coloro che hanno la proprietà di una prima abitazione, di un'abitazione principale, che appunto vivono in paesi, in comuni che hanno aumentato l'aliquota. Quindi circa 2500 comuni che hanno aumentato comunque l'aliquota da regolamento con delibera quest'anno. Benissimo. Ci siamo fermati, ma dobbiamo rispondere a il nostro ascoltatore di Lucca, perché abbiamo fatto una piccola deviazione. Ma professor Rolando, i colliri, ne parleremo, colliri e lacrime artificiali, ci sono delle differenze? Certo, allora le lacrime artificiali non hanno nessun farmaco al loro interno, mentre i colliri spesso contengono dei farmaci vasocostrittori, eccetera. I colliri danno dei risultati più spettacolari, no? Se c'è un vasocostrittore, metto una goccia, il mio occhio diventa subito bianco, sì, e sono assolutamente contento. Però il vasocostrittore a lungo andare può dare degli effetti collaterali importanti, quindi ne devo usare sempre di più, perché se no non ottengo lo stesso effetto. La lacrima artificiale invece va a integrare le lacrime esistenti, e quindi è meno spettacolare nel suo risultato, ma alla fine premia, vero? Mi piace. Io sono per la lacrima artificiale. Intanto chiediamo ai nostri ascoltatori se avete gli occhi rossi, se avete avvertite quella sensazione sgradevole di sabbia dentro l'occhio. Abbiamo la possibilità oggi di parlare, parlando di lacrime, anche di quando il nostro occhio sembra proprio privo di lacrime, e anche quando è infiammato, penso ad esempio alla congiuntivite. Quindi rimanete con noi per fare chiarezza, proprio chiarezza come le lacrime, anche sulla legge di stabilità. Esatto, ci sono degli ascoltatori, lo fa Luigia, le risponderemo dopo, che ci chiede se ci sono delle novità relativamente a chi deve andare in pensione, parla di un anno specifico, le persone del 1952. Un'altra ascoltatrice invece, Franca, mi è piaciuto questo messaggio perché mi ci sono un po' riconosciuta, ho sempre pianto molto, ma ogni volta che lo faccio mi provoca atroce mal di testa, io non piango moltissimo, ma se mi capita effettivamente... Vedi, non è liberatorio e... Mi porta, magari mi libero, come dire, emotivamente di un problema, ma me ne carico di un altro, ma possibile. Andiamo. Ne parleremo. Gli occhi che piangono sono quelli che vedono meglio. Victor Hugo. E non a caso le nostre nonne ci dicevano che piangere fa venire gli occhi belli. Siamo tornati, la donna di cuore e la donna di denari, naturalmente. Abbiamo i nostri ospiti, in linea il professor Maurizio Rolando, grande esperto di lacrime, qui in studio. Giovanni Parente del Sole 24 Ore, più o meno anche lui, come dire, in forma diversa, si è dovuto documentare sulle lacrime provocate dalle tasse che ci inseguono ovunque. Oggi vogliamo parlare di lacrime vere, di lacrime, dico finte, ma per dire lacrime artificiali, che, professor Rolando, vengono spesso utilizzate dalle persone che portano lenti a contatto. Certo, perché la lente a contatto fa consumare le lacrime. Quando uno mette la lente a contatto, le lacrime naturali evaporano molto più velocemente. Allora la lente tende ad asciugarsi e anche a cambiare un po' forma, quindi può diventare fastidiosa sull'occhio. E una buona idea è quella proprio di reidratarla durante la giornata, non aspettare di avere difficoltà. Se qualcuno ha difficoltà a togliere la lente a contatto alla sera, quello è un segno che non produce abbastanza lacrime per quella lente, e quindi che deve reidratare il suo occhio durante la giornata. È un bel problema se rimane appiccicata. E soprattutto dobbiamo imparare a scegliere le lacrime artificiali corrette per il nostro occhio. Infatti c'è un esame che va proprio a valutare la qualità delle lacrime che abbiamo, e per capire se fanno il loro lavoro. Lo stiamo raccontando, è un lavoro alquanto complesso, professor Rolando. Sì, realtà stiamo capendo che il lavoro delle lacrime è molto più complesso di quello che immaginavamo qualche anno fa. Esiste un test fondamentale che si basa sul fatto che le nostre lacrime devono essere prodotte, stare sulla superficie dell'occhio e andarsene. Si chiama test della clearance, del ricambio lacrimale. È un test relativamente facile da eseguire per un oculista naturalmente, ma si capisce in questo modo se una persona è capace a produrre lacrime e se è capace anche, le lacrime sono capaci anche ad andare via. Sì. Perché se una lacrima che resta sempre lì diventa un po' come una pozzanghera. E certo. Si accumulano le sostanze che poi possono diventare tossiche e irritanti per l'occhio. I grandi pianti e la relazione con il mal di testa, professore? Questo è probabilmente il pianto crea una reazione vasomotoria che scatena poi il mal di testa. Non c'è una connessione diretta fra la lacrimazione e la cefalea, ma il fatto che il pianto provoca un fenomeno congestizio e quindi un effetto vasomotore che potrà scatenare poi una cefalea. Professore, torno solamente sul discorso lacrime. Insomma, noi facciamo questo esame, vediamo anche la qualità delle nostre lacrime, perché una lacrima noi pensiamo che sia fatta d'acqua, ma in realtà è un piccolo, no, è fatta da tanti ingredienti, tra cui anche un po' di grasso, giusto? Esattamente, ci sono i lipidi che sono apposta per migliorare la qualità ottica, per quello che gli occhi brillano, perché abbiamo un velo di grasso sulla superficie dell'occhio e servono per ridurre l'evaporazione. Se non abbiamo lipidi a sufficienza, perdiamo l'acqua molto più velocemente. Quindi questo esame è utile per capire se dobbiamo utilizzare delle lacrime artificiali, ma anche per scegliere la lacrima artificiale corretta. Beh, questo ci aiuta per vedere se abbiamo necessità di avere una lacrima che resti più a lungo sulla superficie dell'occhio oppure una lacrima che deve diluire la superficie dell'occhio, il contenuto. E quindi capire qual è la necessità, ci aiuta a capire qual è la necessità del nostro occhio. Abbiamo alcuni ascoltatori, abbiamo più donne che uomini, perché le lacrime sembrano un problema più femminile. A cui Chiara, che ci scrive, sono una piagnona professionista. Piango tantissimo, persino davanti ai cartoni animati, purtroppo dopo mi restano le palpebre gonfie per ore. Consigli per decongestionare e tornare umana la nostra sensibilissima ascoltatrice, professore? Impacchi con la camomilla? Sì, acqua fredda e bagni con la camomilla va benissimo, perché tolgono questo edema dovuto alla congestione basale dalla lacrimazione. Andiamo nella provincia di Varese. E poi la lacrima artificiale va benissimo. Andiamo nella provincia di Varese, c'è Gigliola, e poi sentiamo Adriana e poi parliamo di quelle lacrime che ci vengono quando leggiamo, quelle lacrime... Non il Sole 24 Ore, non però. Non il Sole 24 Ore, ma se leggiamo a lungo, il professor Rolando magari ci racconterà il motivo, se leggiamo a lungo sentiamo gli occhi affaticati, un po' rossi, ma... Ma ci sono abbiamo buone notizie, buone per i notizie. Libri. Buone notizie, cercate di curare i vostri occhi, perché l'anno prossimo potrete leggere molto di più, visto che ci sono degli incentivi fiscali per l'acquisto dei libri. Ne parliamo fra un istante. Prima spazio agli ascoltatori. Gigliola, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, scusi se disturbo. Ma non disturba mai, siamo qua per lei. Senta, io volevo fare una domanda al dottore. Sì. A me è stato riscontrato da poco la sindrome di Sjögren. Sì. Che comporta, oltre ad altri sintomi, anche la secchezza oculare. Sì. Io dal primo test di Schirmer, perché ha parlato di un test, però io non ho, a me hanno detto che si chiama Schirmer, non lo so, quello che mi hanno fatto, e avevo poche lacrime. Sì. Ho fatto 2 mesi di cortisone, base di cortisone, adesso sono aumentate. Però io sia prima che ora, io non ho mai avuto problemi agli occhi, cioè non è che mi li sentivo... Sì. E mi è stato detto di usare queste lacrime, ma le devo sempre usare tutti i giorni? È meglio oppure all'occorrenza? E poi se a lungo andare possono portare delle conseguenze queste lacrime? Brava Gigliola, che belle domande, grazie. Professor grazie. Rolando. Allora, sì, andiamo con ordine. Il test di Schirmer è un test che ci indica la capacità della ghiandola lacrimale di produrre. Ok. E quindi il fatto che la terapia antinfiammatoria che ha fatto abbia migliorato la condizione è un dato estremamente positivo che mostra che la ghiandola è ancora incapace a produrre lacrime. Perfetto. Quindi questo è un segno molto buono. Evidentemente la signora, fortunatamente per lei, ha un buon compenso della superficie dell'occhio, per cui anche se aveva poche lacrime riusciva a gestire, anzi riesce tuttora a gestire la condizione. Sì. E questa è un'altra ottima. Buona cosa. Purtroppo, però, se produce poche lacrime, ebbene, la superficie dell'occhio non viene lavata abbastanza, certo, e quindi ha un rischio maggiore di sviluppare fenomeni infiammatori. E la malattia di Sjögren è in realtà una malattia infiammatoria, per cui il suo occhio avrà una propensione a sviluppare l'infiammazione. Quindi può essere utile mettere nel corso della giornata, senza aspettare di avere fastidio, sì, una volta o due volte, una lacrima artificiale che lavi la superficie dell'occhio. In questo modo abbiamo meno rischio di avere complicazioni. Ecco, meglio anticipare, un po' come la sete, quando i medici ci dicono non aspettare ad avere sete, cerca di bere, anticipa. Mm-hmm. E così anche la lacrimina, vedi? Molto bene. 800 24 00 24, state chiamando in molti, raccontandoci che problemi avete, appunto, ai vostri occhi, perché appunto ci sono queste situazioni di lacrimazione così eccessiva, e se volete condividete con noi anche il tema della lacrimazione dovuta alle tasse che bisogna pagare. Qual è quella che vi ha fatto piangere di più nel corso dell'ultimo anno e quale temete vi farà piangere l'anno prossimo? 800 24 00 24 o 349 238 6666. Volevi sapere quanti libri puoi comprare l'anno prossimo, Nicoletta? Mi piacerebbe molto. Caro Noa Giovanni, allora, qua l'industria di settore esulta naturalmente, perché io non ho mai visto un provvedimento di questo tipo. Tra l'altro, da molti lo aspettavano, i genitori per esempio, chiaramente da molti punti di vista si chiedono le detrazioni per le spese scolastiche, quindi libri di testo quantomeno. Noi abbiamo ospitato anche a Salvadanaio nelle edizioni passate le associazioni dei genitori, che a gran voce hanno sempre fatto questa richiesta ai governi passati, mai accontentati. Quest'anno non solo si accontentano loro, ma persino anche chi, come dire, compra un libro per il piacere della lettura. Diciamo che chi ama leggere potrà stropicciarsi gli occhi, no? Avrà bravo, ampio modo. Giovanni, ma è fantastico! Avrà ampio modo di poter leggere, insomma, almeno da questo punto di vista, con un aiuto da parte del fisco. Che cosa succede? Tra 2014, 2015 e 2016 provvedimento Destinazione Italia, approvato venerdì in Consiglio dei Ministri, stanzia dei fondi, per esattezza 50 milioni di euro, che sono destinati a una detrazione del 19%, quindi si sconta in dichiarazione dei redditi, per chi sostiene spese per l'acquisto di libri cartacei fino a 2000 euro. Quindi perché non c'è l'ebook, hai non fatto questa precisazione perché non c'è l'ebook. Non c'è l'ebook, sono libri cartacei. L'ammontare della spesa deve essere in qualche modo ripartito per 1000 euro su libri scolastici e per 1000 euro per altre tipologie di libri. Quindi 2000 euro in sono un 2000 anno. Euro complessivamente. Questo è il, però 1000 euro per quanto riguarda l'acquisto di libri scolastici. E allora abbiamo fatto bene a fare questa precisazione. Non vi aspettate che il libraio vi faccia lo sconto alla cassa del 19% sul prezzo di copertina, ma dovete mettere questi acquisti in dichiarazione dei redditi. Ovviamente si scontano l'anno successivo, certo, rispetto a quando sono stati sostenuti, certo, come il meccanismo di tutte le detrazioni, come per le spese mediche, ad esempio. Questa è una buona notizia, perché insomma, mi dispiace, non vorrei far lacrimare i nostri ascoltatori. No, mi spiace dovergli dire. Tu sei troppo carino per farli lacrimare. No, mi spiace, la prenderei al volo, perché mi dispiace dirgli che comunque sulle detrazioni è in corso, c'è un grandissimo punto interrogativo. Aia. Perché... Sì, vabbè, ma si sono sbilanciati fino a questo punto, adesso non ci... No, su questa qui dovremmo stare abbastanza sicuri, ma mentre su tutte le altre c'è una manovra che punta a fare un riordino entro il 31 gennaio, e se non venisse attuata come prevede la legge di stabilità, le detrazioni che sono attualmente al 19% scenderebbero l'anno prossimo al 18% e poi l'anno successivo al 17%. Taglio lineare. Quindi, insomma, faremo una battaglia affinché questo non avvenga. Non so se avremo successo, ma come dire, piangeremo lacrime amare per il nostro insuccesso. E vediamo se piange e che lacrime versa Adriana, che ci chiama dalla provincia di Bergamo, prima di andare a sentire che cosa sta succedendo sulle strade, sulle autostrade. Vai, Adriana. Buongiorno, sono Adriana e ho quasi 70 anni. Io ho versato lacrime amare, lacrime di dolore, ma voglio parlare delle lacrime. Sono di lacrime gioia. Di esperienza, Adriana, che cosa vuole fare? Tanto per tutti è così. Per tutti è così, però le lacrime più belle sono quelle che ho versato la mattina di Pasqua del 2005 alle 8 del mattino. Sono ancora emozionata. La sento, la sentiamo. Perché? Quando mio genero mi ha telefonato e mi ha detto: è nata Letizia. La sua nipotina, fantastico, che lacrime magnifiche, delle lacrime indimenticabili. Sapesse io quando il mio nipotino mi chiama zia Debbie, là arriva il luccichino subito. Sì. Grazie Adriana per averci raccontato e aver condiviso con noi questa cosa bella. Grazie e tanti auguri anche al suo nipotino. Ma si commuoveva ancora? Sì. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, magari facciamo una piccola specifica prima di andare al prossimo approfondimento sulla questione dei libri che abbiamo sollevato poco fa. Allora, non è che dovete comprare per ottenere questo beneficio fiscale 2.000 euro di libri. Avete la possibilità di acquistare 2.000 euro di libri per ottenere il 19% di sconto in detrazione fiscale. Ma anche se compro un libro, se la mia spesa libri ammontasse in tutto l'anno a, non so, 50 euro, 100 euro, 200 euro, 500 euro, vale la detrazione su quelle lì. Assolutamente sì. Perché molti ascoltatori ci scrivono, ma chi volete che compri 2.000 euro di libri? No, attenzione, non siete stati attenti però. Però magari se abbiamo due o tre figli che studiano a scuola, attenzione, perché qua non dico che ci si arrivi, ma le cifre riesci a raggiungerle. Ovviamente, come dicevamo prima, è un tetto massimo, è il limite massimo di spesa per cui si ha diritto alla detrazione, come diceva invece Nicoletta adesso, e chiaramente se spendi 50 euro la detrazione la calcola al 19% su quei 50 euro. Ovviamente il libraio deve rilasciare certificazione, come cito il decreto, guarda, faccio il normativo fino a deve essere documentato fiscalmente al venditore, quindi scontrino parlante, ecco, questo vuol come dire quello che vi rilascia la farmacia per le spese che potete detrarre. Ma la domanda di Antonio è sottile. Sentiamo. Perché ci dice, ci vuole lo scontrino parlante? E si risponde praticamente già di sì, perché prosegue descrivendo, sono preparati i librai e le cartolerie? Avranno ampio tempo per prepararsi, perché è chiaro che scatta al 2014, però come la farraginosità delle leggi italiane ci vorranno due decreti attuativi per poter far partire questo meccanismo. Quindi sostanzialmente ci vorrà un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e poi un Ministero dell'Economia, quindi insomma bisogna attendere l'attuazione. Qualche mese ci diamo, però sono due ministeri che teoricamente si parlano e che si parlino molto velocemente, perché questo provvedimento ci piace. Abbiamo fatto anche una puntata sulla lettura. Molto. Acquisto libri antichi, vale anche per quelli? Ci scrive Lore. Allora, questo però è uno dei punti che dovrà essere specificati. Diciamo che nel testo della norma non si parla di libri nuovi, quindi insomma poi non so se una restrizione verrà messa in sede attuativa, ma non suggeriamolo. No, perché quelli già, se uno è appassionato, già un paio di quelli, queste cifre se ne vanno per quelli là. Non gli diamo questo suggerimento. Diciamo nulla. Ritorniamo alle nostre lacrimucce? Certo. Salva Danaio. Io non ho mai usato né il termine lacrime né il termine sangue. Il termine sacrifici forse sì. L'hai riconosciuto, Giovanni? Che tu, Nicoletta, e chi se lo scorda più, le conferenze stampa di Mario Monti, quando veramente quelle manovre di stabilità erano lacrime basta? Quelle degli ultimi tre anni fa, credo fosse quella di Monti, no? Guarda, era quella dove pianse la Fornero. Era il 4 dicembre 2011. Guarda lì come ce l'ha decreto stampato, praticamente inciso sulla pietra questa data. E la Fornero, e dopo la Fornero ci sono anche tante persone che continuano a piangere. Esatto, e allora, a parte le sue lacrime in conferenza stampa, sulla quale non vogliamo tornare a commentare perché non ci interessa, è inutile, ma in realtà piansero molto, caro Giovanni, la platea degli esodati, cioè quelle persone che magari per una situazione di crisi aziendale furono così invitate a lasciare il posto di lavoro con i cosiddetti anche contributi, lo scivolo lo chiamano, no? Qualche volta appunto in gergo, come dire, professionale, e che però non avevano ancora ottenuto i requisiti pensionistici. Nel frattempo la riforma Fornero lì aumentò ulteriormente, per cui adesso a che punto siamo di questa situazione e che cosa prevedono i provvedimenti recenti? Allora, emendamento approvato la scorsa notte, quindi tutela per altri 17.000 esodati. Mm-hmm. Attenzione però, è una tutela che spazia nell'arco di un periodo di tempo fino al 2020 e vengono stanziati circa 950 milioni di euro. Qual è il presupposto che viene fissato dalla norma approvata in commissione bilancio? I requisiti pensionistici devono essere maturati entro 36 mesi dall'entrata in vigore della legge Fornero. Quindi che cosa vuol dire? C'è una data, 7 dicembre 2014. Quindi questa è la data spartiacque per poter essere ammessi in questa nuova platea di esodati. Quindi Sant'Ambrogio praticamente dell'anno prossimo. Sant'Ambrogio l'anno prossimo, segnatelo, anche per i non milanesi, insomma, in qualche modo questa è la data spartiacque. bisogna ricordare una cosa, che di provvedimenti sugli esodati ne sono stati presi tanti. Ricordo soltanto che un'ulteriore tutela era stata prevista nella conversione del decreto che ha abolito sostanzialmente la prima rata dell'IMU sull'abitazione principale, quindi già era stata ampliata ulteriormente. Adesso si estende ulteriormente la platea la platea degli esodati, perché come aveva detto anche il vice ministro dell'economia Fassina, c'era un impegno da parte del governo a tutelarne sempre di più. Il discorso è che bisognerà continuare a mappare quelle situazioni di marginalità o di criticità che si sono verificate o che emergono col passare dei mesi, e quindi insomma non è escluso che possano emergere altre situazioni, e quindi si per deve esempio la classe di pensionandi del 1952 è una di queste che potrebbe ricadere nel nucleo dei 17.000 nuovi salvaguardati? Esatto, sì, cioè bisogna naturalmente verificare quali erano i presupposti di uscita entro quale data. I 52 hanno avuto un trattamento un po' particolare dalla riforma Fornero, molti sono stati esclusi dalla pensione che vedevano a un passo, quindi in qualche modo bisogna monitorare bene strettamente le singole posizioni personali, certo. Perché sulle pensioni esistono regole generali, ma poi vanno declinate sul numero di anni di contributi versati, certo, e sui requisiti personali maturati. Un altro ascoltatore ci chiedeva prima se esiste un sito in cui sono elencati tutti i comuni che hanno aumentato l'aliquota sulla prima casa. E allora Giovanni l'ha mandata a me con la mail, poi magari è un elenco che è stato elaborato dal Sole 24 Ore, ma se andiamo forse anche sul sito dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni, lo troviamo. Allora abbiamo due opportunità. Con una, passare per Cuore Denari. Ecco. Assolutamente. Facciamo l'elenco di tutti i comuni. Quanti sono i comuni 2005? Sono circa 2500. Vabbè, dai, non possiamo elencarli. Elenchiamo quelli che ci piacciono di più. Milano, per esempio, che ha aumentato. E qua sono dolori e lacrime per noi che già gennaio siamo pronti a pagare. No, guarda, il primo in ordine Genova alfabetico. Così lo diciamo anche al professor Rolando, che a forza di parlare di lacrime magari le versa una anche lui. No, faccio il primo in ordine alfabetico, così facciamo un'equiparazione nord-sud. Agrigento, ecco. Agrigento, benissimo. Allora troviamo questo Genova elenco. Non sappiamo. No, Genova professor adesso, Rolando, adesso la Genova, cerchiamo. Sì. Vabbè, Genova, ma Genova sicuramente. Professore, certo, volete chi non c'è in un tetta, dite voi a Genova. Ma tu le sai. Questa è una vecchia tecnica, certo. Vero? Perché comunque un po' avere la lacrimina, la lacrimuccia in tasca serve, ma c'è una ricerca che dice che le donne che piangono spengono il desiderio maschile. La sapeva lei, professor Rolando? Perché vi siete gelati? Adesso non è che sia un esperto di questa materia, ma faccia il modesto. Certamente le mie pazienti piangono poco, perché molto spesso hanno gli occhi asciutti. Vede. Quindi non traiamo delle conseguenze. Quindi non facciamo tante, come dire, le occhette anche con gli uomini, quelle che si rendono subito lucido lo sguardo, perché non attacca. Non funziona più. Ecco, anzi, li smontiamo. Perché attiva il senso di protezione. Ma di chi? Dell'uomo, ce ne sono ancora alcuni che quei due tre che si impetiosiscono. Però insomma spegni un po' il piacere del corteggiamento. Giovanni, hai qualcosa da dire a tal proposito? Sì, cioè, no, è interessante questo. Francamente, da un punto di vista personale, non l'ho mai messa in pratica, però ci farò attenzione. Perché lui è un ragazzo intelligente che cerca le donne molto, come dire, hanno una tenuta emotiva e sei disinteressato alle lacrime. No, però, tra l'altro, ci sono le donne che lo fanno apposta. E sentiamo un po' Elia, dalla provincia di Bergamo, che invece pone proprio il problema del pianto a comando. Elia. Sì, buongiorno. Ci dice. Ecco, prima solo una cortese richiesta. Quando parlate di pensioni, specificate sempre pubblico e privato, altrimenti certo. Uno non capisce mai. Bravo, Elia. Va bene, d'accordo. Allora, diciamo che tutto il tema della Fornero riguarda i privati. Ottimo. Poi, cosa voleva dirci? Bravo, dopo allora, vedi, mi ha strapazzato un po'. Bravo. Adesso ci mettiamo a piangere io e Giovanni. No, per quanto riguarda le lacrime, io volevo sapere se esiste una tecnica, se è possibile piangere a comando. Perché? Sia una persona normale, sia magari chi lavora nel cinema. Vuole fare questo esperimento, Elia? Vuole darsi alla cinematografia? Vuole diventare un attore drammatico? Ma certo. Professor Rolando, si riesce a piangere a comando? No. Io non riesco. Neanch'io. Sì. Con esercizio io penso che si possa ottenere certo, perché amica le lacrime poi escono. Ah no, poi dopo me l'ha insegnata la tecnica. Ok, adesso noi andiamo a sentire il nostro GR, sì. Poi ritorniamo insieme nell'ultima parte della trasmissione, lacrime di cuore, lacrime di denari, ma con le vostre domande all'800 24 0024. Lacrime di pioggia, il tuo ricordo mi parla. Ma quanto sono bravi questi cantanti che ci scrivono le canzoni a comando? Eh? Magnifici. Esatto. A proposito di comando, abbiamo parlato prima di come lacrimare su ordinazione. Non è sempre facile, chiaramente, magari per gli attori che si. Infatti, Elena ci scrive che la tecnica per piangere a comando è quella degli attori. Ci si concentra su un evento molto doloroso e ci si commuove. Poi è tutto in discesa. Allora, per quello che riguarda invece il proseguimento del nostro programma, stiamo chiaramente affrontando il tema delle lacrime dal punto di vista della problematica all'occhio con l'ospite Rolando. Quindi lacrime di cuore, non solamente le lacrime che versiamo per tirare fuori le nostre emozioni, ma anche cerchiamo di capire che cosa si nasconde dietro agli occhi che lacrimano troppo, e cercheremo di capire col professor Rolando un po' così la linea, no, tra il fisiologico e il patologico, o di occhi che invece lacrimano poco, e quindi parleremo di lacrime artificiali, colliri, insomma che cosa possiamo, quali segnali ci mandano le nostre lacrime e come possiamo aiutare i nostri occhi a stare bene, dato che le lacrime sono fondamentali per il loro benessere. Se volete chiaramente porci le vostre questioni, potete farlo come sempre all'800 24 00 24. Se le vostre ultime lacrime le avete versate andando magari in banca o alla posta a pagare un'imposta o una tassa, e oggi rifacciamo il punto della situazione con il nostro Giovanni Parente su tutti quei provvedimenti contemplati nella legge di stabilità ma anche nel pacchetto Destinazione Italia, per capire che cosa ci aspetta l'anno prossimo, sì? A proposito, Genova, Giovanni, eccola, come siamo messi? Perché no, il professor Rolando, insomma, essendo genovese, com'è? No, se ha un'abitazione principale a Genova dovrà pagare la minimo entro gennaio, probabilmente entro il 24, che verrebbe spostato il termine. E sì, la pagherà, perché Genova è uno di quei 2.436 comuni che ha aumentato l'aliquota sull'abitazione principale, l'ha portata dallo 0,50% allo 0,58%, quindi su quel differenziale dello 0,08% dovrà pagare la minimo. Allora, mi hanno sgridato perché mi dicono che non ti ho fatto spiegare correttamente, che ti ho interrotto, la lista dei comuni che hanno aumentato la famosa aliquota sull'abitazione principale. Dove troviamo questa lista? In realtà l'abbiamo detto, forse è sfuggito, ma lo ribadiamo volentieri. Allora, facciamo così, visto che i link sono un po' complessi, li mettiamo a disposizione dei nostri lettori, dei nostri ascoltatori sui social di Corriere Denari. Ci sono due canali. Uno è un canale, diciamo, che per gli abbonati del Sole 24 Ore, noi abbiamo già predisposto un elenco che è strutturato provincia per provincia con il singolo comune e l'indicazione dell'aliquota che è stata aumentata, modificata. Se poi invece chi non è abbonato al Sole 24 Ore e chi volesse soltanto cercarsi un singolo comune, diamo anche un link dell'IFEL, che è l'Istituto per la Finanza Locale dell'ANCI, che consente di cercare per singolo comune e verificare appunto qual è l'aliquota e fare il confronto appunto tra l'aliquota applicata nel 2013 e l'aliquota applicata nel 2012, e quindi saprà se dovrà pagare o meno la minimo entro il 24 gennaio. L'ANCI è l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Saprà insomma se rallegrarsi o piangere. Eccoci qua. E saprà che ormai che le lacrime di gioia e quelle di dolore sono un po' diverse, anche le lacrime cambiano in relazione a quello che mangiamo, vero professor Rolando? Certamente, se noi abbiamo un'alimentazione particolarmente grassa avremo una modificazione della parte grassa delle lacrime. Le lacrime ciccione, insomma. Sono più saporite, insomma, ecco. Non sono proprio ciccione, ma sicuramente sono. Quindi avremo un aspetto untuoso, delle volte si assume proprio un aspetto untuoso delle lacrime che si appoggiano sul bordo palpebrale, quindi si vede proprio il bordo palpebrale più unto. Altre volte, per esempio, in carenze alimentari significative perdiamo la capacità di produrre la mucina, che è una sostanza che tiene le lacrime attaccate all'occhio, e quindi possiamo avere dei problemi, possiamo avere delle lacrimazioni paradosse perché si è perduta la capacità di mantenere la lacrima attaccata all'occhio. Professor Rolando, in questi giorni tutti lacrimiamo perché le temperature più fredde, insomma, lo sappiamo, noi ci mettiamo cappello, sciarpa, ci copriamo, ma gli occhi insomma non hanno difese, e se le si attrezzano lacrimando. Ma ci sono lacrime e lacrime. Quando un occhio lacrimante diventa un occhio da controllare? intanto se questa lacrimazione è frequente e non, una iperlacrimazione saltuaria, vabbè, può essere causata da qualsiasi stimolo esterno. Mm-hmm. Se invece la lacrimazione permane, è frequente nel corso della giornata, e se la lacrimazione dopo un po' perde la sua trasparenza, beh, lì bisogna farsi vedere, perché magari c'è qualche difficoltà proprio nelle vie di scarico delle lacrime, e quindi la lacrima tende a rimanere sulla superficie dell'occhio finché non trabocca. Altre volte ci sono delle patologie che producono iperlacrimazione, delle sofferenze della cornea, ad esempio una cosa tipica, una malattia della cornea produce una lacrimazione riflessa superabbondante. Quindi sì, se la lacrimazione riflessa è saltuaria oppure viene soltanto quando usciamo di casa o prendiamo un po' di vento, ci sta. Ma se no, se è una cosa che non passa, forse è meglio farsi vedere. Patologie possono essere più diverse. Andiamo a sentire i nostri ascoltatori. Deborah, chi prendiamo? Prendiamo Clemente, perché con questo nome sarà clementissimo anche con noi. Da Verona, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, complimenti al professore. Allora, a parte le vostre battute, lacrime esaurite grazie alla Fornero e quant'altro, il mio problema è questo: da circa un anno ho deciso di fare gli occhiali progressivi, prima avevo sempre due o tre paia che giravano, e quando è il tardo pomeriggio praticamente ho una sensazione di fortissimo bruciore praticamente, e con il fallatè, andando in farmacia, mi hanno dato un collirio medicato, ma non è che si risolva molto. Volevo chiedere se per caso può essere causato dalla secchezza, magari dal cambio degli occhiali, ecco, certo. Forse con il... Grazie Clemente, che ci dà anche l'opportunità, professor Rolando, di parlare un attimo dei colliri, come gli spray nasali tendiamo ad abusarne. Allora, intanto può essere che l'occhiale nuovo richieda qualche adattamento anche da parte dell'occhio, come può essere che bisogna imparare un po' a spostare la testa nell'uso dei multifocali, e quindi può succedere che questa condizione crei situazione di stanchezza visiva, eccetera. Ma il problema della correzione è importante, perché l'abuso di colliri medicati può provocare un effetto paradosso per cui le lacrime si asciugano. Perché se io uso sempre uno di questi colliri col vaso costrittore e lo uso frequentemente, ora usarlo una volta ogni qualche giorno non succede assolutamente nulla, ma se lo uso tutti i giorni o più volte al giorno, la vasocostrizione che io applico sulla superficie dell'occhio ha degli effetti negativi sulla produzione delle componenti che formano poi la lacrima che abbiamo davanti della superficie dell'occhio. Certo. Quindi bisogna stare attenti a non esagerare. Ma è corretto, professor Rolando, pensare che prima del collirio è meglio utilizzare una lacrima artificiale? Signore, assolutamente sì, perché molto spesso la ragione per cui noi abbiamo l'occhio rosso o l'occhio un po' stanco, un po' affaticato, è il fatto che la nostra lacrima non riesce a dare le prestazioni che dovrebbe dare, sia perché non è completamente adatta, sia perché ne produciamo al momento magari meno o ne consumiamo di più. E allora, posso affrontare un altro tema legato agli occhi? Le lacrime? Sì, guarda, senti che legame che ti faccio, perché occhio non vede, cuore non duole, come si sa. Allora, per risparmiare sulle assicurazioni, che sono molto onerose per gli automobilisti italiani, il governo ha pensato questa cosa: obblighiamo le compagnie di assicurazione a dotare gli automobilisti della scatola nera. Sì. Se questi automobilisti lo faranno volentieri, allora sarà praticato loro uno sconto sulla polizza per l'RCA. Hanno avuto una bella idea, e no? Fin qui sembra tutto bello. Lo sconto di quanto sarebbe? Intorno al 7%, Giovanni? Non può essere inferiore al 7%. Esatto, quindi anzi le compagnie potrebbero fare anche qualcosa di più. Il tema è che le scatole però nere costano... Filippo Oreggi dice che il 7% è poco, bisogna prima cosa alzarlo. È poco, ma poi le compagnie devono fare degli investimenti per attrezzarsi con queste scatole nere, e noi invece immaginiamo che addirittura possano caricare sui costi dell'RC Auto. Noi abbiamo questo dubbio. Secondo, gli automobilisti non la mettono mica volentieri, perché è un occhio che, come dire, osserva tutti i comportamenti, anche Giovanni. È un occhio indiscreto, quindi ti dice dove stai andando, magari sei qualcosa. Senza lacrime, ma indiscreto. Sei qualcosa da nascondere, magari viene fuori dalla scatola nera, attenzione. Quindi non è che sia proprio una genialata questa. Ma non ho capito cosa uno dovrebbe nascondere alla scatola nera. Fammi un esempio. Vabbè, allora, è come quello che non paga col bancomat quando passa il casello autostradale, perché mediamente non è perché non vuole usare la moneta elettronica, ma perché non vuole tracciare i posti che frequenta. Lo so che sono un po' maligna, però le cose stanno così. Nicoletta, scusami, altro che redditometro qua, però. Ma veramente? Se poi magari fa delle tratte particolari per cui va a trovare l'amante, che ne sappiamo. Ma pensate, ma guarda che 150 miliardi di evasione fiscale si costruiscono in tanti modi. Detto questo, questa scatola nera, secondo te avrà successo questa spinta del governo? Le compagnie non sono affatto d'accordo. Allora, se ci sono pochi amanti, forse. Esatto. No, a proposito di lacrime e sorrisi. No, il problema è che naturalmente i costi di installazione vengono scaricati sulle compagnie di assicurazione. Sì, devono farlo loro. E quindi tutta l'infrastrutturazione costerà alle compagnie da questo punto di vista. Qual è il dubbio principale che avanzavi anche tu? Cioè, è possibile che una compagnia assicurativa da un lato faccia degli investimenti simili e allo stesso tempo pratichi uno sconto all'assicurato? Mi risultano due spinte in direzione piuttosto opposta, no, da questo punto di vista. Quindi come bisognerà... diplomatico, è perfetto. No, però il problema... No, il problema è esattamente questo, perché se poi il costo sostenuto dall'assicurazione si scarica sull'assicurato, si vede che anche quel 7% di risparmio minimo poi rischia di essere vanificato. Comunque, insomma, l'obiettivo della scatola nera è quello di rendere anche un po' meno importante, meno corposo il problema delle frodi nei confronti appunto delle assicurazioni, che è a un livello inaccettabile in Italia, che provoca proprio anche questa questione delle polizze individuali molto alte, delle RC auto molto alte per tutti. L'hai ripetuto tante volte, insomma, nel corso di Salvadanaio, anche con le denari. Il problema è esattamente quello. Poi nasce soprattutto in alcune zone d'Italia, è bene dirlo, è bene essere onesti. Le frodi delle assicurazioni sono diventate spesso anche un modo per vivere per alcune persone. Quindi purtroppo dai cattivi comportamenti dei singoli si generano dei costi e delle esternalità negative, si direbbe, in economia, su tutto quanto la collettività. Incidente finto, grande collare, è importante indennizzo, e qua si va avanti un paio di mesi. Purtroppo le cose stanno così. La scatola nera, vedremo. Allora c'è Anna, sì, che chiama da una città della Sardegna che io non posso pronunciare perché ha troppe S. Adesso fammela vedere un attimo, che vedo se ti posso aiutare io. Dillo tu. Anna è da Sassari. Sassari. Io non ho la S. Come si chiama la S? Un po'... Non so, Sifula, non lo so come si chiama. Io ce l'ho. Insomma, no, tra l'altro, guarda, l'anticipo delle nostre ragazze del centralino continua a lacrimare, è quasi ossessionata. Altre S. Anna, buongiorno. Buongiorno. Stiamo scherzando con lei, naturalmente. Innanzitutto siete simpaticissime. Grazie. E vi ascolto sempre. Molto bene. Ecco, adesso voglio parlare di questo mio problemaccio che ho, perché ho le lacrime a getto continuo, ho sempre dei fiumiciattoli attorno agli occhi, dei laghetti. Mi piacciono di più i laghetti, Anna, dei fiumi, dei fiumiciattoli. Quindi sono andata dall'oculista. E mi ha detto che ho i canalini otturati, stappati. Ha cercato di stapparmeli, però la cosa ha continuato, al punto che io rinuncio a guardare, rinuncio a leggere, insomma è una cosa veramente fastidiosa. E volevo sapere che l'intervento, mi hanno consigliato l'intervento. Per disostruire un po' questi canalini, professor Rolando, allora ci spieghi bene, che allora, succede ad Anna? Possono succedere due cose, o che il canaletto sia otturato o che il canaletto non sia capace a assorbire le lacrime, perché le lacrime vengono portate via dalla superficie dell'occhio con un meccanismo che è proprio una pompa che assorbe lacrime attraverso dei punti, dei canaletti lacrimali che noi abbiamo. Quindi se le lacrime non vanno via dall'occhio e traboccano è perché il canaletto è chiuso o il canaletto non funziona. Certo. Allora, se il canaletto non funziona siamo un po' nei guai, perché non è che siamo così bravi a ricostruire questo sistema di pompa. Se il canaletto invece è occluso, è possibile aprirlo con un intervento che si chiama dacriocistorinostomia. Come si chiama? Che sembra una parola... Una parolaccia, ma sì. Si chiama dacriocistorinostomia, che vuol dire sostanzialmente aprire una nuova strada per le lacrime attraverso il sacco lacrimale. Certo, fare no, disostruire questo piccolo forellino. C'è una strada alternativa, perché spesso la strada dei canaletti e del sacco lacrimale è una strada che si è chiusa per una cicatrizzazione, per un'infiammazione prolungata. Non so se è il caso della signora, ma spesso un raffreddore che da ragazzini, che è durato molto, o una sinusite che dura molto, può provocare questi poi nel tempo questi fenomeni. Altre volte è invece proprio un problema costituzionale di forma di questo tubo di scarico che tende a tappare. Certo, un piccolo tubicino di scarico. Ecco, un po' mi vedo un po' al lavandino. È un intervento che non è invasivo, vero professore? No, ahimè. L'intervento allora ci possono fare degli interventi non invasivi, che mi risulta, capendo quello che ha detto l'ascoltatrice, almeno in parte sono stati fatti, ma senza troppo successo. Quindi ha provato a riaprirlo, ma se non si riesce a riaprire, purtroppo è necessario oggi un intervento chirurgico vero. Quindi l'importante è, come sempre, avere una diagnosi, certo, e poi da lì si parte. Ci sono gli ipovedenti, Nicoletta, ai quali noi ci siamo anche dedicati appunto nelle nostre trasmissioni, che ci chiedono se possono loro avere la detrazione sugli audiolibri. Allora, Giovanni, no, il tema è che non abbiamo ancora un elenco trasparente, cristallino, tassativo, definirei così. Volevo invece ricordare che sono sicuramente esclusi gli ebook, l'avevamo già anticipato prima. C'è questa perplessità, insomma, che potrebbe riguardare l'acquisto di libri cartacei via internet. Esatto. Rimandiamo al decreto attuativo, appena ne sapremo di più, in qualche modo ve lo faremo sapere dal testo della norma, però si presuppone che non dovrebbero essere esclusi, perché in qualche modo sono sempre cartacei. Sono pur sempre cartacei. Se l'acquisto in fatturazione, ad esempio, in ricevuta, documenta il numero del codice fiscale dell'acquirente. Quindi diciamo il tema che è il distributore che deve attrezzarsi per rilasciare una certificazione corretta. Un altro ascoltatore sempre su Facebook, perché io come al solito io e Nicoletta ci dividiamo un po' i compiti, da questa parte vado a monitorare i social network. Roberto ci scrive ricordando che aveva ottenuto i voucher babysitting nell'ultima operazione di cui abbiamo parlato tanto nelle precedenti edizioni di Salvadanaio, ma ci dice non li abbiamo usati perché a Castelfranco Emilia guardano l'anno solare e non i mesi della bimba nata il 7 gennaio di quest'anno. A Parma, dove lavora la madre, ci hanno chiesto 650 euro, non potevamo usare i voucher in quella struttura perché evidentemente non si era accreditata all'INPS. Di fatto, presi i voucher, non possono essere utilizzati, quindi un altro spreco. Questo è per sollevare all'INPS e alle autorità competenti i problemi che si sono riscontrati nell'operazione precedente, in modo che non si possano di nuovo ripetere. Nicolettina mia. Nicolettina è qua che sta cercando di leggere gli sms che arrivano al 349-238-6666. Potete ancora mandarla, ascoltatori che si rifanno alle compagnie assicurative. Alcuni dicono che le compagnie risparmiano sulle truffe, ma non so se lo vogliono fare, perché sono una buona scusa per gli aumenti. Andiamo a Mario, che ci chiama da Lucca. Mario, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Mi sente bene? Così è così, ma proviamo. Mario, vada. Allora, io posso dare la mia testimonianza. Sì. Mi sente ora? Sì. Adesso ha fatto qualche paciughino, Mario? Cosa ha toccato, Mario? Mario. È caduto. Niente. Andiamo allora a un altro Mario che invece ci chiama da Firenze. Siamo molto toscani oggi. Mario, buongiorno. Spesso però, buongiorno, in Toscana ci ascoltano tantissimo. Non pensavo di essere io prima. Qua siete in tanti. Allora, io facevo una domanda per quanto riguarda la mini IMU. Sì. Perché mi risulta... Se la beccherà anche lei. Dobbiamo pagarla tutti i comuni che hanno oltre lo 0,40, anche se l'avevano aumentata nel 2012. Esatto. E allora andiamo qua nel comune del nostro Renzi, tra l'altro, no, segretario del PD. Che cosa ci ha combinato a Firenze con l'IMU? Esattamente, cioè la differenza va pagata a tutti i comuni che l'hanno aumentata oltre lo 0,40 anche nel 2012. Quindi insomma sostanzialmente quello che non è stato rimborsato dalla cancellazione di acconto e saldo dal governo per gli aumenti effettuati appunto dalle scelte del singolo comune chiamerà alla cassa i contribuenti interessati, appunto i proprietari di abitazione principale, anche per quanto riguarda le pertinenze in qualche modo annesse all'abitazione principale. Benissimo, mi stai dicendo che abbiamo terminato? No, noi abbiamo pensato di chiudere questa puntata con delle lacrime di divertimento, di gioia. E sono tante queste. che ci vengono proprio dall'ascolto di uno spezzone di un film che parla proprio di lacrime e di pianti. Mm-hmm, sentiamolo allora. Dipingete? Fate il pittore? No, no, faccio musicista. Fatemi sentire qualcosa. Cioè questa qua, no? Questa è bella, cioè bella secondo me, però è solo l'inizio. Non l'ho fatta ancora, ma perché sto scrivendo ancora, no? E fa così, proprio inizio, no? È questa qua. Yesterday, boom, boom, boom, la musica la faccio con la bocca adesso. Far away. Yesterday. E poi tutta questa melodia qua, insomma, no? Tutto su yesterday. È bellissimo. Mi piace. Era, non ci resta che piangere. Su questa dobbiamo velocemente chiudere. Non ci resta che salutarvi. Ma noi vi facciamo sempre ridere. A domani. Cuore e denari.